Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Anche Glenn Gould, il nostro amico e il più importante virtuoso del pianoforte di questo secolo, è arrivato soltanto a 51 anni, pensai mentre entravo nella locanda. Solo che non si è tolto la vita come Wertheimer, ma è morto, come si suol dire, di morte naturale. 4 mesi e mezzo a New York suonando e risuonando le variazioni Goldberg e l'arte della fuga. 4 mesi e mezzo di Klavier Exerzitien, come Glenn Gould ripeteva di continuo e solo in tedesco, pensai. Esattamente 28 anni prima avevamo abitato insieme a Leopoldskron per studiare con Horowitz e, ciò riguarda Wertheimer e me, ma non come ovvio Glenn Gould, nel corso di un'estate completamente guastata dalla pioggia, avevamo imparato da Horowitz più che negli 8 anni precedenti al Mozarteum o alla Wiener Akademie. Horowitz ha veramente abolito tutti i nostri professori. Eppure quegli atroci maestri si erano stati utilissimi per capire Horowitz a fondo. Per 2 mesi e mezzo piovve ininterrottamente e noi, chiusi a chiave nelle nostre stanze a Leopoldskron, lavoravamo giorno e notte. L'insonnia di Glenn Gould era ormai diventata per noi uno stato irrevocabile. Di notte elaboravamo per conto nostro ciò che Horowitz ci aveva insegnato durante il giorno. Non mangiavamo quasi nulla e per tutto quel periodo non patimmo dei dolori di schiena che ci avevano tormentato di continuo fin tanto che avevamo studiato con i nostri vecchi professori. Sotto Horowitz quei dolori di schiena non li sentimmo affatto, anche perché studiavamo con una tale intensità che in ogni caso non avremmo potuto sentirli. Al termine del nostro corso con Horowitz fu chiaro che Glenn già suonava il pianoforte meglio di Horowitz stesso. Ad un tratto avevo avuto l'impressione che Glenn suonasse meglio di Horowitz e da quel momento in poi Glenn fu per me il più importante virtuoso del pianoforte di tutto il mondo. Per quanti pianisti io abbia sentito da quel momento in poi, nessuno suonava come Glenn. Lo stesso Rubinstein, che ho sempre amato, non suonava meglio di lui. Wertheimer ed io eravamo pari quanto a bravura. Anche Wertheimer ha detto molte volte che Glenn era il migliore. Lo ha detto perfino quando ancora non osavamo dichiarare che era il migliore del secolo. Il ritorno di Glenn in Canada significava veramente per noi la perdita del nostro amico canadese. Non pensavamo di rivederlo mai più. Era invasato dalla sua arte in una tale maniera da farci supporre che non potesse tirare avanti in quello stato ancora per molto e che in breve tempo sarebbe morto. Invece, passati 2 anni da quando avevamo frequentato con lui il corso con Horowitz, Glenn suonò al Festival di Salisburgo le variazioni Goldberg su cui 2 anni prima si era esercitato giorno e notte con noi al Mozarteum, studiandole e ristudiandole di continuo. Dopo il suo concerto, i giornali scrissero che fino ad allora nessun pianista aveva mai suonato le variazioni Goldberg con tanta arte. Dopo il suo concerto di Salisburgo, essi scrissero dunque ciò che noi già sapevamo e avevamo detto 2 anni prima. Con Glenn ci eravamo dati appuntamento, dopo il suo concerto, al Ganshof di Max Glahn, una vecchia osteria che io amavo. Bevemmo dell'acqua e non parlammo di nulla. Non appena ci rivedemmo, io dissi subito a Glenn che noi, Wertheimer venuto apposta a Salisburgo da Vienna, ed io non avevamo mai pensato nemmeno per un attimo di poterlo rincontrare, che l'unica cosa di cui eravamo sempre stati convinti era che lui, Glenn, una volta tornato nel Canada da Salisburgo, si sarebbe ben presto rovinato a causa del suo invasamento per l'arte, a causa del suo radicalismo pianistico. Sì, parlando con lui usai proprio questo termine, radicalismo pianistico. Il mio radicalismo pianistico è un termine che Glenn ha poi usato di continuo, e io so che questa espressione l'ha adoperata molto spesso anche in Canada e in America. Già allora, dunque quasi 30 anni prima della sua morte, Glenn non amava nessun altro compositore più di Bach. Subito dopo per lui veniva Handel, Beethoven lo disprezzava. Perfino Mozart, quando lui ne parlava, non era più lo stesso Mozart da me amato come nessun altro, pensai entrando nella locanda. Glenn non ha mai suonato una nota senza accompagnarsi con il canto, pensai. Non è mai esistito un altro pianista con questa abitudine. Della sua malattia polmonare parlava come se fosse la sua seconda arte. Nello stesso periodo abbiamo avuto la stessa malattia che poi ci è rimasta, pensai, e ultimamente anche Wertheimer si è ammalato della nostra malattia. Ma Glenn non si è rovinato a causa di questa malattia polmonare, pensai. Ciò che l'ha ucciso è stato l'assenza di vie d'uscita in cui lui stesso si è cacciato suonando per quasi 40 anni, pensai. Lui, naturalmente, non ha smesso di suonare il pianoforte, pensai, mentre io e Wertheimer abbiamo smesso di suonare il pianoforte in quanto non l'abbiamo trasformato in una mostruosità come Glenn, che da questa mostruosità non si è più tirato fuori, non avendo mai avuto la voglia, in effetti, di tirarsi fuori da questa mostruosità. Wertheimer mise all'asta, al Dorotheum, il suo pianoforte a coda Bösendorfer, mentre io, un giorno, per evitare che il mio Stanway seguitasse a tormentarmi, lo regalai alla figlia di 9 anni di un maestro originario di Neukirchen presso Altmünster. La figlia del maestro rovinò il mio Stanway in brevissimo tempo, il che non mi dispiacque affatto, anzi osservai con piacere perverso questa ottusa opera di distruzione. Wertheimer si era addentrato, lo diceva di continuo lui stesso, nella scienza dello spirito. Io avevo dato inizio al mio processo di intristimento. Senza la musica, che da un giorno all'altro non ero più riuscito a sopportare, io intristivo, intendo senza la musica pratica, quella teorica aveva sempre avuto su di me fin dal primo momento solo un effetto devastante. Da un momento all'altro avevo odiato il pianoforte, il mio pianoforte, non ce l'avevo più fatta a sentirmi suonare, non volevo più sbagliare nota sul mio strumento. Così un giorno andai a cercare il maestro per annunciargli il mio dono, ossia il mio Stanway. La gente dice che sua figlia è dotata per il pianoforte, avevo detto al maestro, annunciandogli il trasporto dello Stanway in casa sua. Ero giunto per tempo al convincimento di non essere adatto alla carriera del virtuoso, avevo detto al maestro. Siccome in tutto quello che facevo miravo all'eccelso, ero costretto a separarmi dal mio strumento poiché, certo, con esso, come avevo capito all'improvviso, non avrei mai raggiunto risultati eccelsi e dunque non c'era da stupirsi che mettessi il mio pianoforte a disposizione di sua figlia che era così dotata. Io non alzerò mai più nemmeno una volta il coperchio del mio pianoforte, avevo detto allo strabiliato maestro, un uomo alquanto primitivo che ha una moglie ancora più primitiva di lui, originaria anch'essa di Neukirchen presso Altmünster. I costi del trasporto me li assumo ovviamente io, avevo detto al maestro che conoscevo benissimo fin dall'infanzia, come del resto conoscevo la sua dabbenaggine, per non dire imbecillità. Il maestro ha subito accettato il mio dono, pensai, entrando nella locanda. Nemmeno per un attimo avevo creduto al talento di sua figlia. Di tutti i bambini che vivono in campagna, i maestri dicono che hanno del talento, talento per la musica soprattutto, e in realtà invece non hanno il minimo talento, sono tutti bambini assolutamente privi di qualsiasi talento. E il fatto che uno di loro soffi in un flauto, o pizzichi in una chitarra, o strimpelli su un pianoforte, non dimostra ancora che egli abbia del talento. Sapevo di consegnare il mio prezioso strumento a una persona totalmente inetta. Proprio a questo scopo lo avevo fatto portare nella casa di quel maestro. In brevissimo tempo la figlia del maestro ha mandato in rovina e reso inservibile il mio prezioso strumento, uno dei migliori strumenti in assoluto, uno dei più rari e dunque dei più ricercati e dunque anche dei più costosi strumenti che ci siano. Ma la rovina del mio amato Steinway era esattamente ciò che avevo voluto. Wertheimer si è addentrato, come diceva di continuo lui stesso, nelle scienze dello spirito. Io ho dato inizio al mio processo di intristimento e, mandando il mio strumento nella casa del maestro, ho avviato per mio conto questo processo di intristimento come meglio non avrei potuto. Wertheimer, tuttavia, aveva seguitato a suonare il pianoforte per vari anni ancora, dopo che io avevo regalato il mio Steinway alla figlia del maestro, in quanto per vari anni ancora era stato convinto di poter diventare un virtuoso del pianoforte. Del resto, egli suonava mille volte meglio della maggior parte dei nostri virtuosi del pianoforte che si esibiscono in pubblico, ma alla fine la prospettiva di diventare, nel migliore dei casi, un virtuoso del pianoforte come ce ne sono molti altri in Europa, non riuscì più a soddisfarlo. E allora smise di suonare e si immerse nelle scienze dello spirito. Io stesso, di questo son convinto, suonavo ancora meglio di Wertheimer, eppure non sarei mai riuscito a suonare così bene come Glenn. E per questo motivo, lo stesso motivo dunque di Wertheimer, ho abbandonato il pianoforte dall'oggi al domani. Avrei dovuto suonare meglio di Glenn, ma questo non era possibile, anzi era escluso, e dunque rinunciai a suonare il pianoforte. Mi svegliai in un giorno di aprile, non so più esattamente quale, e mi dissi: col pianoforte ho chiuso. E in effetti non sfiorai più lo strumento. Mi recai immediatamente dal maestro e gli annunciai il trasporto del pianoforte. D'ora innanzi mi dedicherò a ciò che è filosofico, pensavo recandomi dal maestro, benché naturalmente non riuscissi neanche a immaginare in che cosa consista questo filosofico. Non sono assolutamente un virtuoso del pianoforte, mi dicevo. Non sono un interprete, non sono un artista della riproduzione. Non ho niente dell'artista. Ero subito stato attratto dal progressivo rattrappirsi del mio pensiero. Lungo tutta la strada che mi portava dal maestro, non avevo fatto che ripetere queste tre parole: niente dell'artista, niente dell'artista, niente dell'artista. Probabilmente, se non avessi conosciuto Glenn Gould, non avrei abbandonato il pianoforte e sarei diventato un virtuoso del pianoforte. Forse addirittura uno dei migliori virtuosi del mondo, pensai nella locanda. Se incontriamo il primo di tutti, dobbiamo rinunciare, pensai. Stranamente ho conosciuto Glenn sul Mönchsberg, il monte della mia infanzia. Veramente lo avevo già visto al Mozarteum, ma con lui non ho scambiato una sola parola prima di quell'incontro sul Mönchsberg, chiamato altresì Monte del Suicidio perché si presta al suicidio come null'altro al mondo, e infatti tutte le settimane si scagliano da quel monte nell'abisso almeno 3 o 4 persone. I suicidi salgono fino in cima con l'ascensore scavato nel cuore della montagna, fanno un paio di passi e poi si scagliano giù nella città. Quelli che giacciono sfracellati sulla strada mi hanno sempre affascinato. E io stesso, come anche Wertheimer del resto, sono salito molte volte sul Mönchsberg, a piedi o in ascensore, con l'intento di scagliarmi giù. Ma non mi sono scagliato giù, e non lo ha fatto nemmeno Wertheimer. Più volte mi ero messo in posa, come pure Wertheimer, per buttarmi di sotto, ma come Wertheimer non mi sono buttato, ho fatto dietro front. Naturalmente finora sono più numerosi quelli che hanno fatto dietro front di quelli che si sono buttati di sotto, pensai. Glenn l'ho incontrato sulla cosiddetta altura Richter del Mönchsberg, dalla quale si gode la vista più bella sulla Germania. Ero stato io a rivolgergli la parola, gli avevo detto «Noi due studiamo con Horowitz». «Sì», era stata la sua risposta. Guardammo giù verso la pianura tedesca e subito Glenn si mise a parlare dell'arte della fuga. Mi sono imbattuto, avevo pensato, in un intelligentissimo uomo di scienza. Aveva una borsa di studio della Fondazione Rockefeller, disse, e comunque suo padre era un uomo ricco. Usava espressioni come star nella pelle o stare nei panni, insomma parlava il tedesco meglio dei nostri compagni di studio provenienti dalla provincia austriaca. È una fortuna che Salisburgo si trovi qui e non in Germania, ossia 4 chilometri più in giù, disse, perché in Germania non ci sarei andato. Fu dal primo istante un'amicizia intellettuale. Per lo più, quelli che suonano il pianoforte, anche se sono celeberrimi, non sanno nulla della propria arte, disse. È vero, dissi io, ma questo succede anche in tutti gli altri campi dell'arte. È esattamente così nella pittura, nella letteratura, dissi, e nemmeno i filosofi hanno cognizione di che cosa sia la filosofia. Gli artisti non hanno quasi mai cognizione della propria arte, hanno dell'arte una concezione dilettantesca, restano a vita legati al dilettantismo, perfino gli artisti più celebri nel mondo intero.